storie italiane. La bambina saggia. Molto tempo fa, in un luogo in cui i cavalli venivano considerati simbolo di benessere, vivevano due fratelli, ciascuno nella propria casa con i propri averi. Demeter era il fratello ricco e Jericho il povero. Forza, Jericho, o non arriveremo mai prima del tramonto. I due fratelli dovevano cavalcare per andare ad una grande fiera in città. Proprio mentre stavano per partire, arrivò la figlia di Jericho. Per favore, padre, lasciami venire con te. È un lungo cammino, mia cara. Ti stancherai. Ho sempre voluto vedere la città. Per favore, padre. Per l'amor di Dio, fa venire la bambina e partiamo. Starò buona, padre, lo prometto. Va bene. Salta su. Cavalcarono tutto il giorno e a tarda sera giunsero abbastanza vicini alla città. Troviamo un posto dove riposare per la notte e al mattino andremo in città. Sembra che ci sia una capanna laggiù. È vero. Andiamo! Questa non è una capanna, ma una stalla. Un buon posto dove riposare per la notte. Guarda, c'è abbondanza di cibo e acqua anche per i cavalli. Che posto eccitante per passare la notte. Va bene, ora ceniamo e andiamo a dormire. Così i tre trasformarono la stalla nella loro casa per la notte. La mattina dopo si svegliarono presto e si prepararono per riprendere il loro viaggio. Andiamo, Nora. Dobbiamo andare. Arrivo, papà. Cosa è stato? Guarda! La nostra cavalla ha dato alla luce un puledro ieri sera? Se la tua giumenta fosse stata la madre, il puledro si sarebbe fermato accanto a lei, ma è andato dal mio stallone. Ma, zio, come può uno stallone partorire? Questo è vero, fratello, e sembra anche che la nostra cavalla... Giusto, dagli dell'acqua e del cibo, poi porta il puledro a me. Ma fratello! I cavalli non arrivano in 100 colori, Jericho. Forse questo puledro si è perso nella foresta ed è venuto qui dal mio stallone. Comunque sia, se la tua cavalla fosse stata la madre, sarebbe andato direttamente da lei. Dal momento che è venuto dal mio stallone, appartiene a me. Vedi, fratello? Vedere? Quindi i due fratelli litigarono a lungo su chi dovesse tenere il puledro. Infine Nora ebbe un'idea. Padre, zio, perché non andiamo in città? Il re Saggio non sta lì? Andiamo a chiedere a lui di prendere una decisione. Lei ha ragione, fratello. Sì, tua figlia è più intelligente di te. Andiamo. Raggiunsero le porte della città. Mentre i fratelli stavano parlando alle guardie, Nora lesse una targa con sopra l'immagine di un ladro attaccata ad un albero vicino. La targa diceva: Ladro, chiunque dirà al re dove si trova, riceverà una compensa di 100 ducati. I fratelli dissero tutto al re. Bene, cosa ne pensate? È davvero difficile, vostra altezza. Se la giumenta fosse stata la madre del puledro, lui avrebbe bevuto il suo latte. Ma il puledro non appartiene davvero nemmeno al fratello ricco. Sta solo litigando per avidità. In realtà ha abbastanza cavalli suoi e potrebbe facilmente lasciare il puledro al fratello povero. Bene. Vediamo se i fratelli sono ricchi o poveri a causa della loro fortuna o della loro intelligenza o della mancanza di essa. Che cosa intendete fare, Vostra Altezza? Quando la ragione fallisce, la saggezza viene in nostro aiuto. Vediamo quale di questi fratelli è saggio. Bene, visto che il puledro non appartiene a nessuno di voi, vi farò una domanda. Chiunque abbia una risposta che mi piace, avrà il puledro. Quindi il re porse ai fratelli una domanda. Qual è la cosa più veloce del mondo? Qual è la cosa più morbida del mondo? E qual è la cosa più preziosa al mondo? Tutti rimasero scioccati dalle strane domande del re. Aspettarono con ansia le risposte che i fratelli avrebbero dato. Dimitr pensò che se avesse elogiato il re nella sua risposta, il re lo avrebbe favorito e così disse. Bene, è facile, Altezza. Che cosa può essere più veloce del tuo cavallo, Sire? Cosa può essere più morbido del tuo letto, mio Sire? E infine, cosa può essere più prezioso del vostro principe? Qual è la tua risposta, Gerico? Gerico era un uomo semplice e onesto. Non sapeva come soddisfare le persone con parole sofisticate e complesse, quindi non sapeva cosa dire. Vostra Altezza, l'altro fratello non ha nemmeno una risposta. Ma non avere una risposta è meglio di averne una insincera, disonesta. Aspettiamo un minuto. Nora rifletté attentamente. Lei voleva rispondere onestamente. E poi improvvisamente le venne in mente. Mi scusi, Vostra Altezza. Posso rispondere al posto di mio padre? Certo, perché no? Devo essere sincera, Sire. Non so veramente quale sia la risposta corretta, ma giudicando da quello che ho visto finora, la cosa più veloce al mondo è il vento. È così veloce che può creare una tempesta e distruggere tutto lungo il suo percorso. E la cosa più morbida al mondo deve essere il bacio di un bambino, proprio come mi sta leccando questo cavallino. E la cosa più preziosa al mondo deve essere l'onestà, altrimenti non avresti annunciato la ricompensa di 100 ducati per le informazioni su un ladro. Bravo, bravo, Gerico! Tua figlia è davvero saggia, onesta e sincera. Sono contento delle sue risposte. Ti do non solo questo puledro, ma 100 cavalli e 10.000 ducati come ricompensa. E per quanto riguarda te, Demeter, avresti potuto essere generoso, ma hai deciso di essere cattivo. La cattiveria non può che portarti a un certo punto, ma i premi veri arrivano con la sincerità. Lascia che questo ti sia di lezione. Capisco, Vostra Altezza. Grazie, mio Sire. Siete davvero gentile. E così è. Possiamo essere cattivi con gli altri, ma questo non ci porterà lontani. Le persone vedranno la nostra cattiveria, ma se davvero desideriamo vivere una vita felice e soddisfacente, dobbiamo essere onesti, sinceri e saggi.